ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su aruba.it. Denari, denari, denari, parole, parole, parole. Ascolta me a Seroshani con due di denari. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani. Ci sembrava il minimo iniziare la nostra trasmissione questa mattina con uno dei brani più noti dei Bangtan Boys. Questa è una boy band coreana molto famosa, perché ricominciamo da loro nella giornata del giovedì in cui dovremmo fare Investire Informati, perché effettivamente c'è un tema finanziario che li riguarda. Oggi alla borsa di Seoul si è quotata la Big Hit Entertainment, è la società sudcoreana appunto di intrattenimento che detiene i diritti della boy band, un vero e proprio, una vera e propria cult band potremmo dire appunto in quest'area, ma per la verità questi ragazzi, sette componenti del gruppo, sono apprezzatissimi in tutto il mondo. E beh, allora, se non abbiamo trovato con Marco Lombardo le informazioni sbagliate, il titolo ha fatto il suo debutto a Seoul al prezzo di collocamento di 135.000 won coreani, salendo di oltre il 97% nel corso delle contrattazioni, in una giornata piuttosto negativa per i mercati finanziari. Almeno questa ci sembra una buona notizia. Peraltro, raccontano le cronache finanziarie, il motivo della febbre da IPO, che è praticamente quell'operazione di debutto di una società in borsa, si spiega con degli stimoli fiscali lanciati dal governo sudcoreano per contrastare la crisi scatenata dalla pandemia da Covid. Stimoli che si sono tradotti in una ondata di liquidità, come sta succedendo in tutto il mondo, che si sta riversando sui mercati, per cui ecco, anche per questo motivo appunto è spiegato il successo di questa operazione. State sentendo la mia voce unica e solitaria a due di denari, perché oggi Mauro non è con noi, lo salutiamo, e così come salutiamo Marco Lombardo che mi aiuta in redazione, così come salutiamo Carmelo Lauricella e festeggiamo naturalmente, se vuoi anche cantando una canzone dei Bangtan Boys, il tuo compleanno, caro Carmelo. Tanti auguri naturalmente alla nostra regia, sempre presente, sempre molto paziente con noi conduttori in queste giornate anche così complicate per portare avanti le nostre trasmissioni. Io in particolar modo che faccio metà giornata qui in studio, metà da casa, e i ragazzi che mi rincorrono sempre. Allora, oggi è giovedì, tutto questo preambolo naturalmente per arrivare a ricordarvi che oggi è giovedì, è la giornata di Investire Informati. Oggi con Fidelity International faremo un punto della situazione sul mercato obbligazionario, sicuramente su quello mondiale. Come sapete, gli stati si stanno indebitando in maniera incredibile per poter affrontare la pandemia, ma dall'altra parte, con tutte le iniziative delle banche centrali che hanno immesso sul mercato tantissima liquidità, i tassi di interesse delle obbligazioni governative sono schiacciati sempre più verso il basso. Ce lo dimostra anche la serie di operazioni che sono state portate a termine nelle ultime giornate dal Tesoro italiano, con alcuni titoli che veramente hanno toccato dei rendimenti che non si sono mai visti a livello storico. Solo per citare un'operazione, il titolo trentennale è stato collocato proprio due giorni fa con un rendimento mai visto dell'1,48%, e quindi cercheremo di capire che cosa vuol dire tutto questo. Ma siccome comunque l'obbligazione è una classe di investimento che deve starci opportunamente diversificata nel portafoglio di ognuno, cercheremo di capire con che criterio, con che percentuale e come si cerca il valore nel mercato obbligazionario in questo momento così sfidante per tutte le classi di investimento. Parleremo poi all'inizio di trasmissione di una iniziativa di educazione finanziaria, perché è pur sempre il mese di ottobre, il mese dell'educazione finanziaria del Ministero dell'Economia, del Comitato Edufin. E quindi ve ne racconteremo una molto carina che abbiamo trovato fra le tante che stanno animando in questo momento proprio questo mondo, quello dell'educazione finanziaria, nella quale appunto, che è un mondo nel quale siamo sempre un po' carenti, come vi raccontiamo ogni giorno, per cui tutto quello che si fa noi lo segnaliamo molto volentieri. Se volete intervenire su tutti questi argomenti, ma non solo, potete come sempre utilizzare i consueti canali. L'800 24 00 24 è il numero verde per intervenire in diretta. In alternativa potete utilizzare il 349-238-6666, ci potete mandare, hanno mangiato stamattina le brioche di Carmelo, ci potete mandare i vostri sms oppure i vostri messaggi su WhatsApp, ce li potete scrivere, ma potete mandarci anche le vostre simpaticissime note vocali. Detto tutto ciò, peraltro volevo anche chiudere sulla boy band coreana. Questa mattina il collega Filippo Santelli, corrispondente appunto dall'Asia di Repubblica, scriveva anche: attenzione ad investire in questo gruppo, perché praticamente entro la fine del prossimo anno i più vecchi della boy band tra i 7 dovranno lasciare il palco per i 18 mesi di leva previsti, e quindi chissà che questo fatto, unito anche alla pandemia che ha fatto cancellare tutto il loro tour, anche se poi fanno dei concerti in streaming a pagamento e vanno lo stesso molto bene, potrebbe significare appunto un po' di, evidentemente, calo di business per la società che detiene i diritti di questi ragazzi. Detto questo, adesso andiamo alle altre notizie del nostro giornale Radio del Risparmio. Drin drin, edicola Risparmio. Allora, questa è una storia che stiamo seguendo sin dall'inizio, ma adesso a quanto pare si fa sul serio e si parte. Non si parte dall'anno prossimo, ma si parte appunto a dicembre, come il Sole 24 Ore anticipa. Oggi parliamo del meccanismo di cashback, cioè quel piano che il governo appunto sta attuando per consentire di alimentare l'utilizzo in Italia dello strumento elettronico di pagamento, naturalmente sempre con l'obiettivo di combattere l'evasione fiscale. E allora questa mattina il Sole 24 Ore scrive che è tutto pronto per il debutto, il rimborso di parte delle spese appunto sostenute con bancomat o carta di credito. Il rimborso partirà dalle transazioni con carta o bancomat effettuate già a dicembre. Un debutto, scrive il Sole 24 Ore, sperimentale, per cui basterà in questo mese effettuare un minimo di 10 pagamenti tracciabili, ed è un obiettivo che si può considerare raggiungibile considerati gli acquisti per le festività natalizie, naturalmente sperando di non doverle fare chiuse in casa come già qualcuno teme e preannuncia. Le spese online sono escluse, ricordiamolo ancora, dal meccanismo di restituzione, per cui saranno spese che dovranno essere effettuate in negozi fisici utilizzando carta di credito o bancomat. Tra l'altro, nelle ultime ore sono arrivate anche tutte le rassicurazioni da parte del garante della privacy, che ha riconosciuto l'accoglimento, scrive il Sole questa mattina, delle indicazioni che erano state avanzate nel corso delle interlocuzioni avute con il Ministero dell'Economia e l'amministrazione finanziaria. E cioè, fra queste perplessità che erano state manifestate, c'erano anche quelle di chi si preoccupava che i dati trasmessi per poter chiaramente poi effettuare il rimborso di parte di queste spese sostenute potessero essere utilizzate con finalità diverse da quelle del rimborso. Invece tutte le autorità in gioco hanno rassicurato che questo pericolo non c'è, quindi i dati trasmessi non saranno utilizzati per finalità diverse dal rimborso degli importi pagati con carta o bancomat, per cui tutto pronto a partire. Vedremo dicembre appunto questa operazione come andrà e se sarà più o meno un successo in termini di aumento delle transazioni elettroniche, appunto in termini appunto di pagamento e così via. Un'altra notizia interessante che volevamo raccontarvi, un po' perché mi fa gioco, perché mi consente di ricordarvi che da sabato scorso è in edicola per un po' di tempo, poi sarà anche in libreria con il Sole 24 Ore, il mio nuovo libro con Mauro Meazza, Investire facile anche nei momenti difficili. Noi lo ricordiamo intanto perché oggi io farò il domandone, chiaramente a chi risponderà correttamente ne invieremo molto volentieri una copia, ma soprattutto mi fa gioco ricordarlo perché ieri abbiamo appreso che l'editoria sta vivendo un momento tutto sommato favorevole se consideriamo tutto il panorama economico complessivo. Un'editoria italiana che sta riprendendo fiato dopo lo shock del lockdown. Ieri abbiamo fatto tanti servizi per il nostro giornale radio appunto raccontando gli ultimi dati di questo settore. La perdita di fatturato c'è nell'ultimo periodo, ma tutto sommato è più contenuta rispetto a quanto si potesse temere, secondo quanto racconta l'Associazione Italiana Editori, che ha presentato gli ultimi dati sui libri e la lettura alla manifestazione appunto sui libri di Francoforte, la Bookmesse di Francoforte, anche se stavolta appunto l'iniziativa, come potete immaginare, si è svolta in collegamento online. Gli editori stavolta non si lamentano, raccontano le agenzie e giornali, per la politica governativa i loro appelli sono stati ascoltati e dal governo sono arrivati un centinaio di milioni di euro per il mondo del libro. È stata infatti rifinanziata, è stata anche rifinanziata la app 18, il bonus per l'acquisto dei libri tenuto per un po' in bilico, ed è arrivato un consistente aiuto appunto alle librerie intorno ai 15 milioni di euro, mentre i piccoli editori hanno potuto contare su una decina di milioni di euro. E quindi, insomma, visto che siamo stati tanto in lockdown, oltre a guardare tanti film, a lavorare tanto sulle piattaforme, abbiamo letto probabilmente anche di più, e quindi questo mercato tutto sommato può dire di aver retto. Un'altra notizia che voglio raccontarvi riguarda un altro tema che vi è molto caro. Basti ricordare che non appena noi pronunciamo la parola bonus, completandola con 110%, ci travolgete di richieste, di chiarimenti, di domande e tanto altro ancora. Allora, da oggi, 15 ottobre, parte la comunicazione all'Agenzia delle Entrate sulla cessione appunto del credito, che, come ricorderete, è uno dei modi, insieme allo sconto in fattura o alla detrazione in dichiarazione dei redditi, con cui si può usufruire della agevolazione così imponente per poter effettuare lavori di riqualificazione della nostra abitazione. Appunto, però deve essere un lavoro molto importante, come sapete, perché deve far fare almeno un doppio salto di qualità alle prestazioni energetiche delle nostre abitazioni. La cessione del credito è con ogni probabilità la scelta più frequente fra i contribuenti interessati ai lavori in casa potenziati dal decreto rilancio, tenendo in considerazione che per lo sconto in fattura l'azienda deve essere d'accordo e la detrazione è un'opzione non fattibile per gli incapienti. Quindi c'è questa opportunità. Da oggi si potrà inoltrare la comunicazione appunto all'Agenzia delle Entrate che l'operazione di ottenimento di questo bonus si vuole fare appunto attraverso la modalità della cessione del credito dello stipendio. Oggi, tra altro, vi segnalo, come fa sempre Mauro, che chiaramente completa tutte le nostre informazioni con i siti internet utili alle nostre ricerche, nell'home page del sito dell'Agenzia delle Entrate.gov.it trovate facilmente il link al provvedimento del 12 ottobre con tutte le istruzioni e il modulo. L'ultima informazione di servizio riguarda il Sole 24 Ore, perché vi volevo segnalare che è disponibile la guida pratica rapporto di lavoro che esamina in modo approfondito tutte le principali tematiche del lavoro e del rapporto di lavoro alla luce sia della normativa che delle più rilevanti e recenti interpretazioni giurisprudenziali e amministrative. Il volume è edito appunto dalle Sole 24 Ore e questa guida pratica appunto è curata da un nostro consulente del lavoro, esperto del Sole 24 Ore, Enzo De Fusco, che può essere appunto acquistata sia in versione cartacea o PDF sul sito Shopping 24 delle Sole 24 Ore. Insomma, questo per gli appassionati dell'argomento. Fatte tutte queste premesse, direi di andare alla prima notizia di oggi. Benvenuti a Bankstation, il podcast diretto da due analisti della City of London. Ogni mese vi accompagneremo attraverso i trading floor e le meeting room dei colossi di Wall Street e della City, dove l'elite della finanza mondiale si riunisce per discutere le strategie per battere il mercato. Vi trasporteremo attraverso ciò che sta accadendo nel mondo della finanza, passando per secoli di storia economica, raccontando e traducendo in chiaro per voi le news economico-finanziarie. Potete ascoltarci su Spotify, Apple Podcast, su tutte le altre piattaforme gratuite e sul sito di Bankstation. Allora, potremmo continuare ancora a lungo. I due analisti della City citati in questa presentazione di questo podcast sono Francesco Namari e Gianmarco Miani. Noi abbiamo in collegamento Francesco Namari da Londra. Francesco, buongiorno e benvenuto e grazie. Buongiorno Deborah, grazie mille dell'invito. E allora, come avete sentito, il brano che vi abbiamo proposto è tratto proprio da un podcast che potete trovare su Bankstation, un progetto di educazione finanziaria rivolto soprattutto ai giovani, basato su diversi canali di comunicazione, che un po' ci fanno anche concorrenza, Francesco, perché questo dobbiamo dirlo. Podcast, ma naturalmente utilizzate anche i social media, utilizzate i webinar, ma più che tutto questo, a cui arriveremo, ci sembra interessante potete raccontare la vostra storia. Che cos'è Bankstation? Tra l'altro voglio fare anche quest'altra premessa, poi ti lascio il microfono. È un'iniziativa di educazione finanziaria che avrebbe avuto tanto il piacere di avere la bollinatura del mese dell'educazione finanziaria, che è in corso, ma per tutta una serie di caratteristiche, siccome per avere il bollino del mese bisogna praticamente avere determinati criteri, determinati parametri, per quest'anno Bankstation non ce l'ha fatta, ma magari per il prossimo anno perfezionate la vostra operatività, le vostre caratteristiche e forse otterrete il bollo per l'appunto del mese. Sicuramente, Francesco, avete quello di Due di Denari. Che cos'è Bankstation? Come vi è venuto in mente di creare questo sito di educazione finanziaria? E io ricordo, e poi ti lascio definitivamente la parola, che Francesco ha 25 anni e sta portando avanti questo progetto già da un po', quindi la sensibilità tra i giovani su questi temi è tutt'altro che ridotta. Francesco. Grazie mille della premessa, Deborah. Allora, dunque, faccio un attimo una premessa di 10 secondi per spiegare chi siamo e che cosa ha dato vita al progetto Bankstation. Io sono un analista che lavoro già da 3 anni in un investment bank qui a Londra, mi occupo di finanza aziendale e aiuto le aziende a finanziarsi emettendo azioni, aiutandole a trovare investitori per le loro azioni. E il mio collega, con cui poi ho dato vita a questo progetto, invece lavora sui trading floor, lui è uno structure, si occupa di valute. Allora, intanto l'educazione finanziaria significa anche far comprendere agli ascoltatori i termini, esatto, che ho utilizzato. Cosa vuol dire lavorare nel trading floor? Allora, il mio collega lavora sul desk di valute, quindi lui si occupa di aiutare le aziende a risolvere i loro problemi di coprirsi contro il rischio di eventuali spostamenti del tasso di cambio tra alcune valute. Quindi lui struttura per loro dei prodotti che li aiuteranno a coprirsi da eventuali movimenti di questi cambi. Quindi quella è la sua specialità. E quindi, siccome avevate scoperto che era molto difficile già spiegare il lavoro che facevate, vi siete così un po' avete realizzato che forse fosse necessario creare anche qualche strumento di divulgazione su questi argomenti. Corretto. E Bankstation, che è il progetto di cui vi parlo adesso, è un progetto di educazione finanziaria, come dicevi, che ho lanciato con questo mio collega, che il cui obiettivo, diciamo, è quello di insegnare come si leggono in realtà le news finanziarie, sia ad adulti che a ragazzi, come leggere i quotidiani finanziari come Il Sole, per l'appunto, o il Financial Times, a chi non ha strettamente un background tecnico e vorrebbe cominciare a prendere in mano questi quotidiani. Il progetto nasce in realtà da un bisogno che io e il mio collega abbiamo notato, che poi è stato confermato dal numero di persone che ha cominciato a seguire e interagire sulla nostra piattaforma, ovvero che da frequenti sondaggi che ci capitavano tra le mani su diversi quotidiani, in cui veniva evidenziato che un grandissimo numero di giovani, adulti, anche in Italia, non sapeva dare la definizione di cosa fosse un'azione, non saprebbe spiegare il ruolo della borsa. E inoltre veniva sottolineata una certa diffidenza nei mercati al mondo degli investimenti, e noi ci siamo abbastanza immedesimati, ti dirò la verità, in questo ragazzo adulto italiano con una carente conoscenza in materia, visto che entrambi noi abbiamo fatto le scuole fino alla fine delle superiori in Italia, e fino al momento in cui non ci siamo seduti in una classe di economia non avevamo mai fatto nessun corso di economia e finanza. E questo in realtà è molto pericoloso, perché crea una generazione, o comunque una porzione della popolazione, che sarà diffidente, farà fatica ad approcciarsi ad un mondo di cui non si sente esperto. Aumenta molto il rischio che un giorno incappino nei serpenti corallo, come dite voi, quindi si facciano rifilare un titolo sbagliato, che vengano risucchiati da quelle pericolosissime piattaforme di trading che ultimamente vanno molto in voga. Certo, Francesco, lo spirito l'abbiamo capito, siccome devo andare alla seconda parte del programma, certo. Quindi che cosa troviamo su Bankstation? Allora, il sito è questo, www.bankstation.it, sì. Molto semplice. Abbiamo cominciato lanciando un podcast che potete trovare sulle piattaforme di streaming, in cui prendiamo le news finanziarie più importanti del mese e cerchiamo di renderle chiare, ma anche avvincenti, quindi mettendole in un contesto storico e anche utilizzando un sistema di narrazione avvincente con suoni, personaggi e prendendoci il tempo di spiegare i termini finanziari più importanti. Per esempio, qualche mese fa si parlava dell'ennesimo default argentino, non abbiamo parlato solo delle ultime settimane, che può creare solo confusione, ma abbiamo spiegato bene cosa fosse un bond, un titolo di Stato, e poi si è arrivati fino a quel momento lì, quindi parlando delle politiche peroniste, colpi di Stato, l'inflazione fuori controllo e le politiche riformiste di Macri. E con sorpresa, visto che in tantissimi hanno cominciato a sentire questo podcast e ci chiedevano di aumentare il numero, per essere più presenti siamo sbarcati sui social media, abbiamo una pagina Instagram, Bankstation Podcast, in cui riusciamo a postare contenuti con molta frequenza, delle pillole, delle definizioni che sono propedeutiche alla lettura delle news finanziarie del momento. Quando il petrolio è andato in territorio negativo, sì, abbiamo spiegato cos'erano i futures, abbiamo messo i link agli articoli del Sole 24 Ore e, avendo in questo modo capito cosa fossero i futures, potevano fruire della notizia molto meglio. Benissimo. Francesco, noi ti facciamo i nostri migliori in bocca al lupo per la vostra iniziativa. L'ultimo podcast realizzato riguarda i tassi interbancari, mi sembra il LIBOR, giusto? Il LIBOR, corretto? Sì. Ecco. Corretto. Ti raccomandiamo con Anna Maria Lusardi per avere la bollinatura del mese dell'educazione finanziaria, quindi vediamo se riusciamo a darvi una mano, perché insomma il vostro lavoro ci sembra molto utile, soprattutto fatto con il linguaggio che serve alle giovani generazioni, che secondo le indagini che raccontiamo ogni giorno sono veramente carenti in termini di informazione finanziaria, quindi hanno bisogno di saperne di più e soprattutto devono essere raggiunti con il linguaggio che loro parlano, ed è quello oggi dei social media, dei podcast e linguaggio appunto dei giovani ragazzi come loro. Grazie a Francesco Namari, analista finanziario, ideatore del progetto, insieme a Gianmarco Miani, Bankstation, www.bankstation.it, e noi andiamo adesso alla rubrica del giovedì. Investire informati. Sì, lo so che tra poco devo fare la borsa, ma una introduzione al tema che abbiamo scelto di approfondire oggi è necessaria. Si moltiplicano di nuovo i casi di contagio. Fino a ieri i mercati sembravano voler davvero proseguire indisturbati sulla loro strada e sembravano appunto voler continuare a marciare con poche sporadiche interruzioni senza sosta. Oggi lo stop c'è, qualche preoccupazione un po' più chiara viene a galla, chiaramente soprattutto per questi lockdown, chiamiamoli un po' isolati, scelti, delimitati, sperando che non diventino più ampi, che sono stati decretati per la Spagna, per la Francia, il Regno Unito. Noi guardiamo chiaramente anche a quello che succede in Italia con preoccupazione, ma insomma il focus di oggi di Investire Informati è sulle obbligazioni. Perché? Perché è una classe di investimento che è sempre stata apprezzata dai risparmiatori italiani, perché è considerata sicura soprattutto per l'aspetto delle cedole, considerate una forma di reddito integrativo. I tassi di interesse, lo abbiamo visto nelle aste degli ultimi giorni, stanno scivolando sempre più verso il basso. Cosa ci racconta lo scenario nel quale ci troviamo? Io do il benvenuto, non riesco ad iniziare l'intervista, iniziamo tra qualche minuto, ma gli do il benvenuto ad Andrea Iannelli, Investment Director Fixed Income di Fidelity International, quindi è il capo dell'area obbligazionaria. Andrea Iannelli, buongiorno e grazie. Buongiorno, grazie per l'invito. Faccio subito la borsa di questa mattina, così almeno non iniziamo la conversazione per interromperla bruscamente. A tra pochissimo. Bene, grazie per le ottime domande e la bella intervista. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Due di denari. And where down we go. Debora, come mai non c'è Meazza? Sarà mica andato a judo? Sì, questa mattina ha deciso di darsi un po' l'attività sportiva, perché no? A parte gli scherzi, Mauro torna presto, ma noi oggi dobbiamo parlare di obbligazioni per Investire Informati con Andrea Iannelli, a capo dell'area obbligazionaria per Fidelity International. La prima domanda gliela vorrei fare, Iannelli, sull'attualità. Fino a ieri abbiamo visto un mercato molto spumeggiante, voleva assolutamente essere molto, distaccato dal tema del contagio da Covid, le borse continuavano ad andare piuttosto bene, con qualche seduta chiaramente di stop fisiologica, ma continuavano ad apprezzare questa grande liquidità in circolazione, i titoli di Stato con i rendimenti sempre più bassi, sempre grazie alle iniziative delle banche centrali. Oggi mi sembra che la preoccupazione sia ritornata tra di noi con grande decisione, e anche lo spread BTP e Bund fa un salto abbastanza significativo rispetto ai minimi degli ultimi giorni. Ci fa una piccola analisi rispetto a questa giornata? Poi andremo ad approfondire l'ambito obbligazionario in termini più complessivi. Sì, assolutamente. Oggi innanzitutto buongiorno, grazie per l'invito. Come dicevi prima, fino a ieri praticamente i mercati erano stati abbastanza anestetizzati, se possiamo dirla così, da quello che era comunque una situazione macroeconomica e relativamente al Covid, che comunque non è che stesse migliorando più di tanto. Oggi con l'annuncio di forte incremento di casi un po' ovunque, sono a Londra e qui si parla di potenzialmente altri lockdowns, quindi misure che sono in corso di essere approvate, che ci fanno tornare un po' lo spettro di quello che è stato il periodo di marzo, aprile, maggio, dal punto di vista Covid, c'è un pochino di apprensione che ha portato a volatilità su tutta una serie di mercati, tra cui il mercato italiano, con il BTP e lo spread che si è allargato, che di nuovo conferma un pochino la sensibilità di quella particolare obbligazione italiana, del mercato italiano, comunque al panorama di propensione al rischio o tensione che magari si può verificare come in queste fasi. Certo, peraltro una giornata che sembra come dire proprio prendere le distanze nettamente rispetto invece a quel trend che avevamo raccontato negli ultimi giorni, perché sono state giornate ricche di iniziative del Ministero dell'Economia, che è andato in asta più volte e ha registrato rendimenti veramente mai sperimentati prima. Per la prima volta, per esempio, la cedola del BTP triennale è stata azzerata. Proprio nei giorni scorsi il Tesoro ha collocato 3 miliardi e 750 milioni di euro. Stesso discorso per il BTP a 7 anni, che ha ottenuto sul mercato un tasso dello 0,75, dello 0,34%, in precedente asta era il doppio, 0,75, minimo storico per il rendimento del nuovo BTP a 30 anni collocato all'1,48%. Quella situazione lì, che cosa ci raccontava, Iannelli? Conferma due trend, è dalla conseguenza di due trend che a nostro avviso continueranno. Da un lato le banche centrali, la BCE in primis, che continuano a essere un player importante sul mercato obbligazionario un po' ovunque. Non dimentichiamo che la BCE è uno dei principali acquirenti di obbligazioni sul mercato, con l'obiettivo di tenere fondamentalmente il costo di finanziamento sia per i governi che per le aziende quanto più basso possibile, al fine di poter affrontare nel modo migliore quella che comunque rimane una situazione macroeconomica non particolarmente facile e che è stata peggiorata dalla crisi Covid, che purtroppo nessuno poteva prevedere. Il secondo trend è quello che comunque comporta o deriva dal fatto che i risparmiatori oggi si trovano di fronte a un dilemma, nel senso che hanno sui loro conti correnti o un tasso che è zero, quindi al netto dell'inflazione garantisce una perdita, o un tasso che è negativo, quindi anche senza considerare l'inflazione si garantisce fondamentalmente una perdita sui risparmi sul conto. Quindi questi ci sono tanti risparmi sui conti correnti. Guardando gli ultimi numeri della European Banking Federation, se non sbaglio, in Europa, solo in Europa, ci sono circa 10.000 miliardi di euro che siedono sui conti a risparmio. Ecco, fa bene a puntualizzarlo, perché non è una condizione che riguarda solamente il risparmio degli italiani che detengono tanta liquidità sui conti, ma a loro fa compagnia anche il risparmiatore tedesco, quello francese, vero? Assolutamente, quindi l'italiano viene visto un po' come la formichina, no? Che tende a mettere sempre un po' di risparmi da parte, che gli piace avere comunque una grande quantità di liquidità, però se guardiamo agli altri mercati, agli altri paesi, questa dinamica è comune anche ad altri, non siamo solo noi. Adesso con il contante che non vende niente, chiaramente c'è una necessità di andare a cercare altre fonti di rendimento, e nel mondo obbligazionario di qualità elevata, quindi con rating relativamente alto, che possono essere governativi, ma a questo punto sono governativi che, come dicevi tu Deborah, offrono probabilmente anche lì prossimi allo zero, si sposta nel mercato del credito, queste vengono viste come l'alternativa più ovvia, e di conseguenza la domanda per queste obbligazioni da risparmiatori in cerca di rendimenti alternativi sta portando il prezzo, sta comunque mantenendo i prezzi relativamente elevati, indipendentemente dal quadro macroeconomico, e a prezzi elevati corrisponde rendimento più basso. E certo. E quindi immaginiamo che anche per un investitore professionale non sia esattamente una passeggiata, come dire, muoversi in queste condizioni. Lei prima, Iannelli, parlava del dilemma del risparmiatore, ma anche per l'operatore appunto un po' più navigato, se vogliamo, muoversi alla ricerca del valore in questi mercati così complessi non sia facile. Qual è il vostro processo di investimento dunque in una fase come questa? Ma quello che abbiamo visto anche negli ultimi mesi è che nonostante ci siano le banche centrali in azione, la volatilità non sparirà del tutto e continuerà a essere qualcosa con cui sia noi come investitori professionali, ma anche l'investitore finale dovrà contendere ancora per un bel po'. Adesso, per come affrontare la volatilità? Bisogna innanzitutto rendersi conto di valutazioni che devono essere comunque appropriate per il tipo di società, il tipo di investimento in cui si va a investire. A questi livelli riteniamo che comunque ci siano opportunità di investimento interessanti in aree come per esempio il mercato del credito europeo o per chi vuole prendere da un lato un rendimento più elevato, ma anche questo comporta chiaramente dei rischi e della volatilità un po' più elevata, ci sia comunque ci sono opportunità interessanti sul mercato dei mercati emergenti e sull'Asia, che da un lato è stata l'area del mondo che per prima ha affrontato la crisi Covid, ma che per prima ne sta uscendo e sembra che stiano controllando la situazione in maniera comunque relativamente forte, nonostante l'incremento di contagi che stiamo vedendo un po' ovunque. Insomma, questa è la situazione, questo è il mondo nel quale anche gli operatori professionali si muovono e chiaramente anche per loro le sfide non mancano. Allora, 800 24 00 24, stavo intanto controllando i messaggi che ci stanno mandando gli ascoltatori. Alcuni ci chiedono dei giudizi su prodotti specifici di case di investimento. Per noi non è assolutamente possibile poter fare un'analisi di questo tipo, dovete rivolgervi ad un consulente che vi spieghi se le scelte di investimento che avete fatto, sia come strumenti che come case di investimento, siano appropriate ai vostri bisogni. Noi così non ce la possiamo assolutamente fare, possiamo dare un'idea a voi ascoltatori su quello che succede nei mercati e come gli operatori professionali, come ci spiegava Iannelli poco fa, si muovono anche loro alla ricerca di valore per poi naturalmente girarla anche sulle soluzioni di investimento che confezionano e che poi vengono sottoscritte dal risparmiatore finale. Tra l'altro, no, sono le 11.44, direi che è il momento di fare, no, non siamo ancora pronti perché come sapete tutti i giovedì noi abbiamo anche il domandone, ma allora facciamo un'altra domanda, sì, ce l'abbiamo sì o no? So che è il tuo compleanno oggi, Carmelo, ma vediamo se siamo pronti con la sigla. Allora, niente sigla, ve la faccio lo stesso, la domanda la mandiamo in onda dopo, la domanda, eccola qua. Tutte le scuse sono buone per regalare il nostro libro, investire è facile anche nei momenti difficili come questo. Allora, martedì scorso, 13 ottobre, il rendimento dei nuovi BTP a 30 anni ha toccato un nuovo minimo storico. L'ho detto prima, è facilissimo, 800 24 00 24 per rispondere in diretta, vi aspettiamo con le vostre risposte e noi adesso, se è pronto, sentiamo anche... Il traffico? Non ce l'abbiamo. Oggi è un po' inceppata la regia, non importa. È così, no? È colpa di Marco Lombardo. Ce l'abbiamo, Carmelo? Posso fare? Oh, traffico. Si stava così bene durante il Covid che non c'era in giro nessuno. Mi avete rotto le balle con sto traffico. Due di denari. Il numero verde da utilizzare perché noi premiamo solamente le persone che ci rispondono intervenendo in diretta per rispondere al domandone di oggi che vi consente di ricevere a casa investire facile anche nei momenti difficili, l'ultima fatica mia e di Mauro Meazza. Martedì scorso, 13 ottobre, il rendimento del nuovo BTP a 30 anni ha toccato il suo minimo storico. Qual è la percentuale toccata? Voi rispondete e noi mandiamo il libro, lo manderemo sicuramente anche ad Andrea Iannelli, capo dell'area obbligazionaria di Fidelity International, che ci sta aiutando a capire cosa succede attorno a noi. Lei è a Londra, ce lo diceva poco fa Iannelli, lo abbiamo ricordato, Proprio un paio di giorni fa la Banca Centrale d'Inghilterra ha fatto sapere una cosa interessante che ci ha incuriosito e ha detto: facciamo una ricognizione fra le banche inglesi. Vabbè, loro sono alle prese con Brexit e hanno anche problemi aggiuntivi rispetto già a quelli che affronta tutto il mondo, ma ha detto: vorremmo cercare di capire cosa ne pensano di uno scenario di tassi negativi. Cosa vuol dire? Che iniziativa vuole prendere la Bank of England? E come commentiamo questa notizia? È importante, Iannelli? Ma sì, dunque la Banca d'Inghilterra sta essenzialmente guardando a se ci fosse spazio, avesse senso, o abbia senso, avere, potenzialmente portare i rendimenti, che ricordiamo in Inghilterra non abbiamo tassi negativi, al contrario di altri paesi, e stanno guardando all'esperienza delle altre banche centrali per vedere proprio se nel caso dovesse l'economia soffrire ulteriore volatilità per Brexit o per Covid o quello che sia, se effettivamente ci siano non solo vantaggi ma ci siano anche svantaggi da tassi negativi, perché i tassi negativi comunque non sono la panacea, che non si sono dimostrati essere la panacea per l'economia, come abbiamo potuto vedere in Europa, come abbiamo potuto vedere in tante altre aree del mondo, e hanno anche degli svantaggi, no? Perché vanno a pesare sulla profittabilità delle banche, andando quindi a limitare la capacità delle banche di poi andare a essere propense a prestare soldi alle aziende qualora queste ne avessero bisogno. Quindi è una qualcosa che stanno valutando con molta attenzione. Mm-hmm. Tra l'altro, una eventualità che non è stata per nulla affatto scongiurata da Christine Lagarde per la Banca Centrale Europea. C'è una domanda di un ascoltatore, Iannelli, che dice: potrebbe chiedere all'analista se nel medio periodo sarebbe il caso di un cambio di baricentro degli investimenti finanziari verso l'Asia. È una domanda interessante questa, anche alla luce di quello che ci ha detto il Fondo Monetario Internazionale in questi giorni, che rifacendo un punto della situazione sull'impatto della pandemia ha rivisto un pochino meglio le percentuali di caduta del PIL a livello mondiale e ha individuato proprio nell'Asia quell'area che sta sopportando meglio questa situazione. Infatti, anche se stamattina le borse cinesi sono andate maluccio, ma in realtà quell'area, anche per condizioni politiche note, regge meglio all'urto della pandemia. Anche per il mercato obbligazionario, quella è un'area interessante per cercare valore, Iannelli? Sì, diciamo, come segnalavo anche prima, nel contesto della ricerca di rendimento, notiamo come il mercato asiatico abbia a proprio vantaggio una serie di cose. Da un lato ha il fatto che le economie asiatiche sono entrate nella crisi Covid prima, ma ne sono uscite prima e sembra che non vogliono rientrarci, la stiano affrontando fondamentalmente in maniera molto migliore rispetto ad altre aree del mondo. Da un punto di vista di valutazioni, poi notiamo come lo spread, quindi i rendimenti a disposizione sul mercato obbligazionario asiatico, rimanga comunque più elevato rispetto ad altre aree del mondo. Di conseguenza valutazioni rimangono attraenti. Ci sono poi dei trend di medio e lungo periodo da un punto di vista demografico, da un punto di vista di avanzamento tecnologico, da un punto di vista di incremento dei risparmi da parte della popolazione asiatica, che tende a favorire comunque quell'area del mondo in termini di investimenti, ed è un'area su cui noi come società stiamo puntando tanto, perché la vediamo come un qualcosa che possa offrire una forte opportunità nel medio e lungo periodo. Noi gli Iannelli mettiamo sempre in guardia con Mauro Meazza i risparmiatori dall'approcciare con cautela a tutti i mercati, naturalmente, e spieghiamo sempre che ad un alto rendimento proposto dall'intermediario corrisponde sempre un altrettanto alto rischio insito appunto nell'investimento. Detto questo, abbiamo appunto spiegato in questo momento come i rendimenti dei titoli di Stato siano a zero e sotto zero, per peraltro scadenze sempre più lunghe, pertanto bisogna veramente aprire il nostro atlante geografico per cercare delle opportunità interessanti, però ricordando sempre che se c'è uno Stato che emette un'obbligazione governativa ad un rendimento alto è per rendersi interessante agli occhi degli investitori. Fatto salvo questo principio, chiaramente voi operatori professionali avete le spalle un po' più coperte per cercare queste opportunità oltre all'Asia. rendimenti alti, dove se ne trovano? Chiaramente per gli ascoltatori non sono suggerimenti di investimento, voi fate sempre una diversificazione ampia, ma ecco, per fare un po', per, anche per raccontare qualche curiosità geografica, dove ne troviamo dei rendimenti particolarmente vincenti? Diciamo, tutto dipende dalla propensione al rischio dell'investitore finale, no? Chiaramente un investitore che viene dal cash, dal contante, fare come primo passo un passo che magari lo porti in un'area di aree molto a più alto rischio, potrebbe essere un passo più lungo della gamma, quindi bisogna fare un passo alla volta a seconda della propria propensione al rischio, della propria propensione alla volatilità. Come dicevi tu, Deborah, a rendimenti più elevati corrisponde tendenzialmente volatilità più alta, quindi bisogna tenerlo in considerazione nei propri investimenti. Guardando alle aree del mondo che ci piacciono un po' di più, a parte l'Asia e in particolar modo tutto quello che sta succedendo in Cina da un punto di vista di sviluppo del mercato dei capitali, guardiamo con interesse anche il mercato del credito europeo, perché magari ha un rendimento leggermente inferiore rispetto ad altre aree dei mercati, come i mercati emergenti, ma le aziende europee stanno affrontando questo contesto macroeconomico partendo da dei fondamentali societari comunque stabili, perché non hanno incrementato il debito che hanno in pancia, ma hanno gestito molto meglio di, per esempio, società americane, la leva finanziaria. Stanno finanziando bene a tassi bassi e stanno sfruttando l'aiuto che sta arrivando dalla banca centrale. Unitamente a ciò, tutto quel trend di domanda per credito di qualità di cui abbiamo parlato prima tenderà a supportare il mercato nel medio e lungo periodo, quindi quella è un'area che guardiamo in modo particolarmente favorevole. Quindi dal punto di vista geografico l'Europa, dal punto di vista settoriale proprio il corporate, quindi le obbligazioni societarie, chiaramente facendo una opportuna selezione. Allora, abbiamo già gli ascoltatori pronti ad intervenire in diretta per rispondere al domandone di oggi. Spiace per gli ascoltatori che dice che stiamo sponsorizzando troppo il nostro libro, lo facciamo ad una settimana dall'uscita, se vi infastidisce cercheremo di essere più sobri e più eleganti, però intanto sentiamo Tiziano dalla provincia di Bergamo se conosce la risposta al domandone di oggi. Il nuovo minimo storico del BTP a 30 anni, se lo ricorda qual è, Tiziano? 1,48. Bene. Tiziano non si scandalizza se parliamo eccessivamente del nostro libro, per cui glielo regaliamo. Grazie, molto volentieri. Grazie. Tiziano prenderà accordi con Marco Lombardo appunto per l'indirizzo a cui poterle inviare la nostra fatica. Iannelli, un'ultima considerazione. Purtroppo abbiamo un minuto di tempo, ma le prometto che alla prossima puntata con lei faremo invece un ragionamento solo su questo. Le obbligazioni governative possono essere anche sostenibili secondo i nuovi criteri cosiddetti ESG? Sì, tant'è che abbiamo visto emissioni fatte dai governi con obiettivi specifici. I green bond. Green bond, quindi c'è sicuramente un trend anche in quella direzione, credo che ne vedremo sempre di più, anche perché dall'altro lato c'è una forte domanda per obbligazioni e per titoli in generale che abbiano un profilo di sostenibilità più elevato da parte di investitori che stanno salendo sul trend ESG, che trend non è, ma è un qualcosa di strutturale che continuerà ancora per tanto tempo a nostro avviso. Quindi gli emittenti, tra cui gli emittenti governativi, tenderanno a voler soddisfare sempre di più questa domanda attraverso emissioni specifiche. Grazie molto ad Andrea Iannelli, capo dell'area obbligazionaria di Fidelity International da Londra, per essere stato con noi ad Investire Informati. A presto. Grazie mille. Grazie. A voi. La puntata termina qui, grazie a tutti per averci seguito, buon proseguimento, noi ci risentiamo credo intorno alle 12.30 per gli aggiornamenti di borsa. Buona giornata. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.